storie de no altri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, buonasera da parte di Gesi e di Antonio. Oh, benissimo, caro Antonio. Siamo qui anche stasera per tenere un po' di compagnia ai nostri ascoltatori. Certamente. A te la parola, come e sempre. Allora, naturalmente, diamo un cordiale benvenuto alle amiche e gli amici vicini e lontani di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro è il 346 26 20 033. Ricordiamo che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Naturalmente un saluto cordiale al nostro regista e al nostro ospite, e oggi questa sera abbiamo un ospite in studio graditissimo, che è il poeta e docente Francesco Crosato. Professor Crosato, buonasera. Buonasera. Buonasera Francesco. Buonasera e benvenuto. Grazie. Ben trovato tra noi. Saluto tutti di cuore, tutti gli ascoltatori. Ecco, il nostro Francesco ancora una volta è qui con noi con le sue poesie e con la sua bellissima recitazione. Però daremo la parola a lui subito dopo la prima canzone, che è una canzone che forse è ai passi con la crisi economica. È cantata da Julio Iglesias e si intitola Arrangiati amore. Arrivare al 27 senza aver il mal di testa un mezzo sciocco, combattiamo con le cifre maledette, altro che mangiare bene bere ad hoc. Io li posso risparmiare di benzina, per l'ufficio prendo l'autobus o il tram, ma tu insisti, va di casa ogni mattina, sono stanco, ora suono il mio tanta. Arrangiati amore, tu la vita te la vivi, non ti privi e non perdi mai un'opportunità. Adesso ti vergogna un vestito non firmato, ma il risparmio resta mia esclusività. Arrangiati amore, sogni sempre di uscire, di partire, respirare aria di mondanità. E adesso piano piano sta calando il conto in banca, quando non ne hai più resta solo la TV. Fortuna siamo in due a lavorare, siamo al 10 e di soldi non ne hai più. Io per quanto straordinario possa fare, come posso darti quello che vuoi tu? Arrangiati amore, tu la vita te la vivi, non ti privi e non perdi mai un'opportunità. Adesso ti vergogna un vestito non firmato, ma il risparmio resta mia esclusività. Arrangiati amore, sogni sempre di uscire, di partire, respirare aria di mondanità. E adesso piano piano sta calando il conto in banca, quando non ne hai più resta solo la TV. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro professor Francesco Crosato. Francesco, stasera di che cosa ci parlerai? Allora, volevo leggervi delle poesie del grande poeta trevigiano, ma di respiro davvero nazionale, Ernesto Calzavara, che è nato nel 1907 ed è morto nel 2000 qui a Treviso. Poi è passato moltissimi anni a Milano, faceva l'avvocato civilista e ogni tanto ritornava nella sua Treviso. Tra l'altro di Treviso diceva, interessante, a Treviso io sto molto volentieri, a condizione di potermene andare via sempre. Spirito libero. Sì. E quindi, tra l'altro, lui ha scritto moltissimo, addirittura è stato pubblicato anche per la Garzanti, Canova stesso ha pubblicato delle cose, ed era un grande sperimentatore della lingua, scriveva in italiano, in dialetto, addirittura in alcune poesie ha inserito anche il dialetto lombardo, milanese, e con qualche inserimento anche dell'inglese addirittura, quindi veramente uno sperimentatore incredibile. E non conosciutissimo, ma io tento nel mio piccolo di farlo conoscere, di valorizzarlo, ecco. Una grande ironia, tra l'altro, ma sentirete dopo dal vivo le sue poesie. Benissimo, allora poi sì, parliamo un pochino della vita di questo... Sì, allora dicevo che è nato nel 1907 a Treviso da una famiglia della buona borghesia, nella quale si alternavano da generazioni professioni tipo l'avvocato, il medico. Terminato il liceo decide di intraprendere gli studi giuridici. Nel 1933, dopo aver conseguito la laurea, decide di trasferirsi a Milano per esercitare la professione di avvocato civilista, come dicevo prima. A Milano Calzavara trascorrerà praticamente tutta la sua vita. L'incontro col poeta milanese Delio Tessa, suo collega a Palazzo di Giustizia, sarà fondamentale nella scoperta della sua vocazione poetica. Già a partire dagli anni 40, Calzavara comincia a comporre le sue prime poesie in lingua italiana. La prima raccolta vera e propria risale al 60 e si intitola Poesie dialettali, ma nel frattempo aveva anche accostato il dialetto. La novità che accompagna la raccolta è la scelta del dialetto trevigiano appunto come lingua di poesia. Benché Calzavara viva e lavori a Milano, continuerà sempre a trascorrere parte delle sue vacanze estive a Treviso, nella sua villetta settecentesca che, se ho ben capito, più o meno è collocata vicino all'ex, ormai ex, provveditorato agli studi, lì, nella zona di via Montello, sì, sulla curva. Ma quello che lo lega a Treviso è anche un rapporto, direi, un po' di conflittuale, un po' di amore e odio, come dicevo all'inizio. La vera grande svolta linguistica matura negli anni successivi a poesie dialettali. Nei primi anni 60 culmina con l'edizione di E, parole mate, parole povere, pubblicato con la prestigiosa casa editrice Scheiwiller di Vicenza nel 66. Qui Calzavara innesta per la prima volta sulla poesia dialettale i procedimenti e le tecniche d'avanguardia della poesia contemporanea, italiana e straniera. Calzavara comincia così ad essere conosciuto come un poeta sperimentale, vince premi letterari prestigiosi. L'incessante ricerca, sia linguistica che stilistica, contraddistinguerà anche tutte le sue opere successive, come Se, sempre Scheiwiller, Cembalo, Scrivano, Analfabeto per la Guanda, Le Ave Parole, pubblicato da Garzanti. Sul finire degli anni 80 cura Ombre sui veri, edita nel 90 da Garzanti e ripubblicata nel 2001, che è un'autoantologia in cui confluisce il meglio della sua produzione poetica. Tra l'altro c'è anche collegato un CD in cui recita il nostro Paolini, no? Uh-huh. Ombre sui veri, dicevo, da questo testo restano esclusi componimenti più acerbi, mentre i testi inseriti rendono una buona testimonianza della sua piena maturità come poeta. Negli ultimi anni della sua vita raccoglie i suoi scritti in numerosissimi aforismi, qualche poesia inedita, in un volumetto intitolato Rio Terrà dei pensieri, sempre pubblicato da Scheiwiller nel 96. Si chiude con esso, questa sua avventura artistica durata circa 50 anni. Si spegne poi, da quello che mi risulta, addirittura qui nella casa di riposo vicino a Porta San Tommaso, la casa Salce, casa albergo la chiamiamo noi, no? Sì. Accudito dai nipoti, eccetera. Nel 2000, dicevo, agosto del 2000. È questo morto più anche o meno. Anziano? Sì, 93 anni addirittura. Sì, sì. Lungo. È l'ultima silloge era scritta nel 96, quindi aveva anche già una certa età. Certo. Cominciamo a leggere qualcosina? Sì. Allora, io comincerei con, non so, due o tre massimi. Beh, sì, perché... Poesie sugli animali del suo bestiario. Sì. La prima è Can. Can, no te si mio, te gan altro paron, te si magro e straco, mon occio bon, me par. Te vardo perché sì, can, te me piasi, te va de qua, de a te nasi, e po te assistar. Te va col tuo troteto, che a strada no pesa, sito, dove, non se sa. Can, se te digo tutto, me ascolti tu, senti, so venuo qua, né a casa grande dei veci che se morti, soio. Dite si entrata al merestel averto in giardin, pa vardar. Cosa vardar? Un uomo griso, tra d'ortighe che fiorisse e che more ogni anno, can? Can, ti te conosci il tuo paron, e col te bate, te piansi e te ridi a tua moda, dopo. Mi so che go paron, ma chi che sia, non so, non l'ho mai visto. E col me bate, bestemo. Ecco qua, so tornane a me camera vecchia, a copare i musati sui muri qua savata ogni sera. So tanto stufo, can. Non che ne posso più destrossiar, ti come mi. Eppur te speri, te vivi, e a tua anima vadrio e to gambe da canton a canton sua strada ogni dì. Can pien de pulsi, de forza, de fame, can tutto curame. Can grando, can serio, can mai contento, can pien de tormento. Can desparà, can superbo e curioso, can capriccioso. Can coi cagne ogni tanto, can bon, can savaton. Can moscador, pien de farfà in testa, can da festa e da lavoro. Can senza partio, can finio. Can de cuor, can cassador, can foresto, ma de sesto. Can che dorme, rustego, can maton, sempre de sbrindoeon. Can povero e sior, tutto il dia cercar, quel che non te pol trovar. Can dritto, esceto, de drento e de fora, can de amaiora. Tutto can. Vien qua, dame assata, can. E po scampa, scampa, se no te bato. Mi me bato. Frusta via, can. Che bello, vero? Sì. Ecco, questa è del cane. È famosissima sul cane. Sì. Poi c'è quella sul gatto e sul porco, quello del giallo. Ah, il gatto, il porcel. Sì. Vediamo il gatto. Il gatto, intanto, sì. Gatto, sentà sue gambe da drio. Te me vardi, gatto. Perché? Pien de pulsi anche a ti, gatto, te sì, am par de qua, am par de a, qua bocca, am par de su, am par de zo, e anche a mi morsegoni de qua, morsegoni de a. Sti maledetti uomini che me sponze, ste passion che me monze, am, gatto, am, e poleca, adesso sta quieto, il peo zenito, baucoto di un gatto, ioci che incanta, a cua che se alta, ciò varda anche a ti, baion, come mi. Ma adesso po' basta, insegnami invece un poco a vardar. L'oseto a maia che fa il tabaro dentro a sua gabbietta, e il gattin ceo partera che non fa ancora meo, che fa min pian pianin, una mosca che svuoia per aria. Una rama che dindo è in alto, una nuvola in ciel che se slarga, una foggia che trema d'amor. Come? Adesso te scampi, indo salti, indo lampi, Torna da mi domani, gatto, te prego. Senza de ti non so bon de vartar. Questa è molto carina, eh? Sì, poi alla fine poi ci sono anche queste riflessioni, proprio l'animale come tramite tra lui e il mondo, no? Che poi lo teorizza. Va bene, adesso noi ci fermiamo un momentino e poi riprendiamo. La seconda canzone in programma è cantata da Adriano Celentano ed è intitolata Se non è amore. Sei giù e non sai perché, se lui non c'è, ci sono io, se vuoi parlare, se hai bisogno compagnia. E allora continuo con l'ultima poesia dedicata agli animali, quella che leggeremo almeno in questa situazione, cioè che è Porcella, poesia molto divertente, no? Meno riflessiva della precedente, e poi cambieremo anche un po' argomento. Allora, Porcella. Benedetto ti, Porcella, che te me vardi, mastegando contento e sgrufoeando. Mi son tutto rabalton dentro, pien dei nuti affani. No verani, ma giorni come ti che vorave, porsa il muso sporco de fango, che te magni i peri crui cascai per terra. E il vento fa bogiar le foglie e scaruffa i pene e le gaine in cortivo. Porsa tutto pansa e lardo duro, scorsa de alba rovecio, bon. I pulsini non scampa nianca coi te vede piavo e otto imbutio. Guarda su, porcel, che se na nuvola isiera, isiera, che svoa pian in ciel. Guarda che bei fiori sai sul pra, l'oseto contento che se netta e ae col beco. Porcel mio bel rosa, coi recete alte su sgrugno, e può piegare in zo suoi occhi, muso da paiasso. Gatto magna ben vecio, si tu passù. Anche simpatiche, sono simpaticissime. Passù, passù. Che dialetto è? Beh, lui è trevigiano. Sinistra piano. Trevigiano di tempi un po', qualche termine, sì, diciamo, un pochino. Aulici, un po' antichi. Anche quel Bojar che è più sul veneziano. Sul veneziano, esatto. Vero, sì. Come mai era così poco leziera, conosciuto? Leziera, perché ha vissuto fuori. Molto tempo fuori, esatto. Certo che qui avendo... almeno non era. Bella fama postuma, però c'è, sì, tutta. Sì, poi l'hanno scoperto i grandi. Sì. Avendo tempo, poter anche, sì, una volta, un'altra volta, leggere anche poesie scritte in dialetto milanese. Sì, beh, lui ha una poesia in particolare, poi con un inserimento di qualche parola gioca su schei, eccetera, sì, significati diversi in dialetto nostro, dialetto milanese, solo qualche incursione, sì, sì, sì. Insomma, ecco. Anche perché non è facile il dialetto milanese. No. Bene. Allora, vediamo, cambiamo argomento, adesso sì. Passiamo all'amore, sì. Questa sempre con riferimento comunque anche in qualche modo agli animali, anche qua. Cesti, i tuoi gran occhi de gata, verti sua laguna, mati riflessi illusi de luna, co te facevi i fusi, svoavo come i cocai alti sora Sampoio. Adesso se tardi ormai. L'angelo se destira, coi soae verte sull'acqua, e il sol se brusa sotto le barche d'oro. Bello. Ecco, breve. Bella, sì, bella, molto, bella, molto carina. Sì. Molto bella. Poi questa, più ironica, decisamente più ironica, gli andava a Vicenza. Ah, sì, che bella, che è simpaticissima. Molto simpatica. Sì, su, sì, molto ironica. Esatto, su una religiosità un po' bigotta, diciamo, soprattutto da altri tempi, no? Gli andava a Vicenza, i preti andava a Vicenza, i monaghi andava a Vicenza, e Dio de Ori gli altri. Nessun sapeva per cosa gli dovesse andare a Vicenza, ma tutti andava a Vicenza, coi candelieri in mano. E cese su quattro rode, piene di oro e di argento, piene di santi e di crose, di banchi, di giacuatorie, di incensi, di indulgenze, di penitenze, di carta, di divina scienza, andava pian pian a Vicenza. Le idee un fia confuse, le idee un fia picciare, co calcagni de frate, ma inconie senza fondo, amori tereni e cesti, parole dite e nodite, le buone intenzioni, i buoni costumi, le buone maniere, gneo gneo, dei sciori e dei poareti, descalzio in reoplano, nessun poteva star senza d'endar tutti quanti a Vicenza. Andava de Sotegon e impressa e Fioe de Maria e avanti de ore e altre che voea scampar via. Andava le scuse in ponta de pie basse basse. Andava i te absolvo que so panse tonde e mese verità i rimedi bandiere de tutti i colori. Andava i pesi e gli osei, andava i lupi e gli agnei, andava in fia i cipressi. E tutti e su tutti pioveva brentane de acqua santa. E il Signor li mandava e tutti andava. Tutti andava a Vicenza, senza saper perché. Ah, che simpatica sta qua. Molto simpatica. È una poesia simpaticissima. Esatto. Ecco, poi potremmo passare, sì, un altro tocco sulla... sulla solitudine anche che ancora ci pervade questa nostra civiltà, diciamo, no, sempre di più consumistica, ecco qua, questa gente preoccupata, no, di difendersi e di chiudersi in casa, e la casa se voda, i crompa la casa e la casa se voda, i crompa la roba e la portane a casa, i tornane a casa noi trova pignente, i compra altra roba e la portane a casa, i torna de novo e noi trova pignente, i porta altra roba e la sera e la incioda, i torna de novo e la casa se voda. I pianze, i mai dise, i se despera, i porta e done, i parenti serpenti, macchine, guardie, lucheti e infrarossi, i porta le bombe, i mitra, i canoni, roba la roba, i la mura nei muri, i sbara, i tescana, e a se tutta una roda, i torna ne a casa e la casa se voda. Questo. Sti giochi di parola continui, esatto. Beh, certo che è bravissima, peccato che sia stato così. Ecco, poi un piccolo tocco anche sul momento della guerra, che lui ovviamente ha vissuto nel 44, e il camion, proprio sono due strofe brevissime, inquietanti, no? È il camion. Un camion de notte se ferma, vanti na porta serada. Nessun lo speta, nessun parla, che da esser fatta na roba. E il cuor del motor batte forte, batte altri cuori, per un camion fermo de notte, vanti na porta col motor che va. Ricordi tristi. Questi sì sono ricordi. E poi, lui ha toccato tutti i tasti, no? Tutti i registri, no? Il tragico, l'ironico, il dialetto, l'italiano. Questo ad esempio è un ricordo di paese molto colorato, no? Paese. La aveva 18 anni quando me pare se andà in sto paese a Torla tanti anni fa. E sempre ste coinete, isiere sotto i monti, sti oliveri e castagneri a quiete allegre e ciare, fra i soturchi che sa de succaro, e stradette rosse fra i campi, e cassadori coi cani, a mattina bonora. No ghe piglievari per ste campagne, ma il bon vin boia isteso nei tine de autunno, e le panocce se sempre que, forse pi grosse, io sei che svoia, i fiori, i fiori, le tose, i ponti, le case alte sul Brenta. Bella anche questa, sì. Bello, no? Sì, molto di bello. Questi nostri paesi, ecco. Così ci fermiamo un momento, e ascoltiamo Paolo Conte. Vieni via con me, vieni via. Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do do do do do, chibum, do do do do do, chibum, chibum, boom, do do do do do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do do do do do, chip, chip, boom, do do do do do, chip, chip, boom, do do do do do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro poeta Francesco. Eccolo qua. E adesso vi propongo questa poesia particolarmente ironica, spumeggiante, sì, vitale direi, no? Strade. Strada de anote de adona nuda della morin dei amorassi, strada del mitra, boom. Strada dello smarin, del pan e vin, del girarost, del bon post, strada dell'appetito, boom. Strada dell'oro, dei ladri, dei guardie, strada de na preson, drento. Strada stradon, stradin, street, strasse, strusse, stramassi, strie. Strada de roba persa, dell'uomo nero, del gatto che se leca, del can rabbia, del copa cani, gran confusion. Strada del vizio, dei piatti sporchi, dei gabi neti, di aspica analisi, strada dell'acqua ciara, oh santa ciara, strada dell'uomo onesto, o misto o mesto, che casca in fosso col paradosso d'aver pensà, strada della quantità, rivoluzione, strada della gran struttura, della gran strettura, in gran calura per la cultura e della cintura de castità, strada del paradiso, alleluia, strada della vita, dell'allegria, della guerra fredda, della pace calda, dei veci strachi, del gran dolor, strada della morte. Amen. Che bella. Sì, questi giochi di parole, queste allitterazioni, bellissimo. Mamma mia, ma bisogna essere bravi per scrivere così. Sì, ma poi lui continuamente cambiava appunto registro. Adesso passiamo, ritorniamo al consumismo che sempre sì, cinghiotte tutti sui prodotti, no? Sì. Sui prodotti magnati coi magneti tirava e asente a comprar. Sui prodotti magnati coi speceti incantava e asente correva e asente comprava. Di e notte a lavorar par poderse comprar. E a roba fruida diventava fruada, a gente fruida diventava fruada, e lavorava, i comprava, fino a quando intunfia, se tutto sciopà, può ancora da capo, in tenaltra maniera. Che è quello che può succedere adesso, no? L'esplosione della bolla. Sì. E questa è simpaticissima, ricerche per un robot. Anche questa anticipatoria, ah, sì. Sì, no? Sì, della... sì. Na scheda, do schede, tre schede, na infinità de schede par drento e congegni, te insegnarò mi, robot, A, B, C, D, E, F, G, H, I, meo, tito, cucù, botato, bisa, boa, bisacuna, busa, barea, alzo gamba, alzo braccio, ma puti, noto, no pol, imparar, no pol, imparar, sì che te impari, su, avanti, ietson, liberal, che sta a San Palè, e dopo, li popoli di Trevigi, non avendo legge, né statuti, né ordine, vivevano secondo loro desideri, desideri, no dialetto, desidero lingua, erano i capei d'oro a Laura sparsi, volere capei d'oro, volere oro, ora comandare, volere bionda robota e tutto potere contesto orbite galassie desso ribonucleico è uguale mc al quadrato. Buono robot, la parola si pensa in te e quello che dici ti fa. Ora imparare per ordine, essere consapevole, promettimi, giura, consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini. Bravo robot, soprattutto voler no morir. Dopo miliardi d'anni de robot, dopo miliardi de volontà de no morir, non sarà più morte partì robot, senza pi corpo, vivo in eterno. Io no consapevole, io solo robot, roboto, boto, bote, bote, bote, boom! Sciopa morto robot, per sempre! Demenziale, bellissima. Che richiama Ray Bradbury, recentemente scomparso, per altri versi, la fantasia al potere. Chi? Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Croniche Marziane, eccetera. Che belle che sono. Decisamente straordinarie. Sono tutte così, è una cosa... Sì, sì, ma sono una scoperta continua. Senti questa che è sì. un po' una riflessione su quello che dicevamo all'inizio sugli animali, no? Gli animali come tramite tra tu e il mondo. Dice, se no che fosse, e il can cammina sui sassi, se no che fosse il can che sta tra me e i sassi, non capiria sto mondo, non capiria. I pesci noa nell'acqua, l'acqua passa pa' i pesci, Iosei svoia nell'aria, l'aria passa fra i ori. Se no che fosse i pesci, se no che fosse Iosei, tra l'acqua e mi, tra l'acqua e mi, tra l'aria e mi, non podaria viver qua, non podaria. Se no che fosse bestie, in mezzo a sto deserto, non che staria, non che staria. Sì, grandissima tutto, sensibilità, ma anche mia, consapevolezza, che riflessione. Giochi di parole, stazione di mestre, è in arrivo il binario numero 7, il treno locale per Piove di Sacco Adria è arrivato al binario numero 9, il treno proveniente da Udine, Pordenone, Treviso parte dal binario numero 3, il treno per Portogruaro vaso pasta riva longa piana piena de piere de piante treno sbrissa il sengambara ai primi passi sui sassi che il trova e can vaso e case vaso del Rodoeon fin quasi al mar e là tac e se ferma per non bagnarse e se sente lontane disperse pai caighi d'inverno fra meso e cane de soturco col sol le boge le brusa Portogruaro se slonga se destira se slanguorisse se impenisse se svoda d'aria diventa piata come una cordea bianca de bombaso se schinsa come un platelminto nell'intestin de un can Portogruaro se nastrica d'aria verde che se posa lesiera par terra sarà vero? Mi non ho mai visto Portogruaro ma è adesso deserto, tutto se muto, se perde, se sfanta, te incanta. Portogruaro. Che modo, è eccezionale, veramente. Sono così contenta di averlo conosciuto, sto poeta, che proprio... Cioè, certo, bisogna saperlo anche leggere, come te. Ti ringrazio. Sì, perché... L'interpretazione è fondamentale. C'è il dialetto tutto... che è sempre... così implica un minimo di fatica nella lettura, grafia, eccetera. Sì, sì, sentite ma... quest'altra, dopo sì. ditemi quando sì, appunto sì, devo chiudere. Qui. E dopo con questa poesia chiudiamo la sezione di Cazzavallese. E poi facciamo qualcosa, cioè, parliamo allora, di te dopo. Quest'ultima perla, che è sempre una riflessione filosofica, ecco, no? Buttate drento. Desvida, scata, scava, scova, scolta, scondate, scodate, strasinate, drento. Terra, albaro, piera, piavo e a bestia, omo, drento, ficate, drento, fora no che se niente. Diventa terra, albaro, piera, parla que parole sue, impara, sunt anime rerum. De più ancora, sunt lingue rerum, sighi pianti tremiti, ridae discorsi, pensieri rerum, sunt, drento, diventa coscienza del sasso. Mamma mia, che potente, no? Potentissime, molto, molto. Sono bellissime. Allora, adesso ci fermiamo un momentino sì. per un'altra canzone. E siccome domani è il compleanno del nostro Antonio, grazie. Siccome ormai ci mancano poche ore, quindi possiamo esatto. anche. Non, ti fa, no, non diciamo quante primavere. No, non serve. A parte che sono le donne quelle che. Assolutamente. Ecco. Allora, so che a Antonio piacciono le canzoni americane anni 50-60. Esatto. E a me è sempre piaciuto molto Pat Boone. Si dice Pat Boone? Pat Boone. Allora sì, così ho pensato, dico, beh, vediamo di dedicargli una canzone cantata da Pat Boone. E la canzone si intitola Love Letters in the Sand, lettere, ecco, d'amore nella sabbia. Sì, io ne avevo preparate due, ma lui ha scelto questa. Questa difatti, credo che sia, mi ricorda alcune cose. E lo immaginavo, ecco, difatti, che avrebbe scelto questa. Va bene, per te Antonio. Grazie. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw. Eccoci di nuovo in studio. Allora, Francesco, io sì, volevo farti qualche domanda. So che tu sei un bravo poeta. E l'ultimo libro hai scritto delle favole. Sì, ho scritto anche delle favole. Un anno fa circa è uscito sì, Ometti Neri in Camera, prodotto sì, dagli tipi di Kellerman Editore, che è un casa editrice molto raffinata di Vittorio Veneto. Però io volevo così fare un piccolo excursus della tua vita, no? Quando hai cominciato a scrivere? Beh, è cominciato un po' in modo regolare intorno ai 20 anni, però ho cominciato a pubblicare abbastanza tardi, intorno ai 40 anni. Adesso ne ho 56, vabbè, insomma. E il tuo primo, il primo libro? Allora, il primo libro di poesie che ho scritto è Cos'hai che non parli? Pubblicato per Ensemble 900, erano poesie in lingua italiana sull'infanzia e poesie d'amore. E con un'ultima poesia però parecchio lunga, che era Il mondo in Telmastel in dialetto, perché avevo cominciato a leggere Zanzotto in dialetto, Filò, e ho cominciato ad appassionarmi anche alla lingua, al dialetto, insomma. Per un lungo periodo poi ho continuato a scrivere in dialetto. Ecco. Sì, poi ho pubblicato un secondo libro qualche anno dopo, Sciantisi, per Longo Editore di Ravenna, e tutto in dialetto. E poi mi sono misurato con l'opera un po' più complessa, articolata, che è questo poemetto in dialetto trevigiano, No so non so, che non racconta la storia, gioco di parole, sì, un'opera per il teatro che racconta la storia di questo sacrestano, il nonso, no? Che lavora tutto il giorno, tantissimo, poi gli viene una sorta di un infarto, muore, va nell'aldilà, trova tutti i santi dai nomi più strani, appena li vede si sente in colpa, perché hanno il nome scritto sulla targhetta, lui giocando col nome si sente comunque in colpa, allora ha un incontro risolutore con Gesù Cristo che gli risolve gran parte dei suoi problemi, perché la prima cosa che Gesù dice a questo povero veneto devastato dal lavoro, gli dice dai, vieni a contarmi, no? Andiamo a bere una ombra che te me conti, no? E questo rapporto umano lo scioglie, no? Lo fa vivere finalmente in una modalità un po' meno tesa, no? Dominata da questo superio, da queste regole, no? Un po' eccessive che si era autocostretto, no? E per cui ecco più o meno su questo, quindi un po' il senso di colpa, ecco. Sì, sì, io lo conosco, me lo ricordo, che abbiamo letto in altra sede. Ecco, sì. E poi cosa hai scritto? Poi ho tradotto questo nostro annuncio, che così qualcuno anche fuori regione era interessato, non riusciva a decifrare bene la scrittura, per cui ho voluto provare a tradurlo in italiano. Ne è uscito un'opera che sta per essere pubblicata, si intitola Sacrista. Un po' che, no, che richiama un po' vagamente Iannacci, no? Il sacrista di Iannacci. Sì. E niente, allora è un'opera che poi nella traduzione ha avuto i miei problemi, perché chiaramente passare dal dialetto all'italiano non è facile, rendere, sì. Cambia un po' tutto, ma è diventato un qualcosa di completamente anche diverso, insomma, ma interessante anche come lavoro, come così sfida un po', no? Adesso lo pubblicherò. Sì, adesso lo pubblicherò probabilmente, quando adesso sto cercando uno che farà per l'introduzione, insomma, eccetera, vedremo. E poi tante altre cose, non so, mi sono interessato di arte, quindi nel senso che, non so, conoscevo dei pittori anche importanti, ho scritto delle poesie ispirate alle opere tipo di Celiberti, Angelo De Martin, carissimo amico. E poi per un periodo, ad esempio per 2 anni, mi sono innamorato della figura di Michelucci, questo grande architetto. Ho girato per la Toscana, soprattutto l'arte sacra, e quindi sto anche preparando quest'opera particolare, in cui ho scritto delle poesie, un poemetto su alcune chiese di Michelucci. Una l'abbiamo qui vicina, che è a Longarone, no? L'altra è a Firenze Nord, la chiesa dell'autostrada, è la famosa, sì, a metà tra Milano e Roma, sì. Esatto, sì, è a Firenze, esattamente, esatto. Firenze Nord, fatta negli anni, primissimi anni 60, proprio periodo del boom economico. E in quegli anni, un po' dopo, poi a Chiesi Longarone, un po' l'opposto, no? Vita, morte, tutte queste cose. In due poli. Vabbè, sarebbe lungo il discorso su Michelucci, perché così, dopo l'ultima passione è stato, sì, Tony Benetton, che allora sto con un mio amico carissimo che è Alessandro De Bei, secondo me un grande pittore trevigiano. Stiamo facendo il giro di tutte le sculture in ferro di Tony Benetton. Ah, e sì, lui disegna, io scrivo, poi vedremo anche lì cosa. Quindi fare un omaggio. Una commistione di arti, sì, diverse. Ecco. Insomma, sei un artista, insomma, in tutti i sensi. Poliedrico, sì, diciamo, a tutto tondo. Sì. Lascio così condurre dalla passione, dalla perché passione. Io il mio lavoro comunque ce l'ho, che è l'insegnante. Sì, sì. E poi, quanto e poi, mai arduo ed impegnativo, sì, presumo, arduo, visti i tempi. È un lavoro che penso che, cioè, per me l'insegnante è una vocazione, anche perché. Sì, beh, in effetti sì, perché poi è un lavoro che ti tira dentro molto, ti coinvolge, è importante. E lì do un po' così la mia componente civile, insomma, per la, ecco. E poi, insomma, mi lascio trasportare poi dalla passione per l'arte. Ma adesso hai detto verso luglio sei in vacanza, quindi sì, puoi dedicarti. Sì, adesso fra un po', dopo vedremo con gli esami di maturità, dopo insomma c'è un bel periodo in cui posso riprendere le fila dell'arte, sì sì. Quindi l'ultimo lavoro che hai pubblicato sono queste favole. Sì, queste favole, sì, Ometti neri in camera. Ecco, volete leggere da qualcuno? Sì, dico due parole solo per spiegare, sì, prego, l'opera. Prego. È un libretto di circa 90 pagine, ci sono una ventina di brevissime fiabe, di 2 cartelle massimo. E allora ho ripreso degli oggetti interni al mio appartamento, alla mia casa, li ho fotografati, fotografie in bianco e nero. Ho fatto tantissime fotografie, poi è stata selezionata opportunamente dall'editore, non sono un fotografo. E dopo, allora, il mio amico appunto Alessandro De Bei, con cui è qualche anno che operiamo insieme, ha sviluppato attraverso il disegno l'idea creativa. Per cui, non so, per dire, all'inizio trovi la fotografia di un particolare del divano dell'appartamento con una sorta di impronta delineata. E quindi è un particolare in bianco e nero. Poi io scrivo questa poesia di un bambino che entra in casa, si chiama Ulisse, e trova una pecora sul divano. Poi ne trova altre tre in bagno, altre quattro in terrazzo, cinque in camera, eccetera, finché a un certo punto decide di uscire e di andare a dormire in macchina perché la casa è riempita di pecore. E il mio amico Alessandro ha fatto poi il disegno delle pecore, quindi dell'aspetto creativo, insomma, che è nato da questo particolare. E avanti così, o metti nell'incamera, per dire, descrive, sapete, nel pomeriggio d'estate il bambino che si addormenta nella camera e filtra dalle persiane, sì, no? Questi luci, no? Che sono come dei pallini, degli ometti, che poi immagino che scendano sul letto, gli riempiano il letto e la camera. E questo da cui il titolo Ometti neri in camera. E avanti così altri particolari, il mangiagomma, che ne so, la macchina automatica per il caffè, una vita sui tetti, vedi il particolare della finestra con dei tetti, e questi bambini che decidono di vivere sui tetti e di andarsene. Sono molto simpatiche. Ne leggiamo qualcuna? Ah, scusa, alla fine, sì? E poi leggiamo qualcosa. Ci sono anche 10 paginette in cui intervisto come autore, intervisto uno psicanalista che è Luigino Lizière, psicanalista freudiano, e in cui interpreta queste fiabe. Poi la cosa andava un po' troppo in profondità, allora si è tenuto più sulle generali e ha sviluppato tutto un ragionamento sul rapporto psicanalisi e fiaba. Quindi c'è anche questo aspetto che è interessante. Sarebbe molto interessante, sì, insomma, sì, sì. Sarebbe molto molto interessante leggere almeno qualche pagina. Sì. Allora, come volete, leggo una fiaba. Beh, intanto leggiamo una fiaba. Leggiamo una fiaba. Una fiaba, sì. E poi ci ascoltiamo la canzone. Vediamo un po', potrei leggere... Quella delle pecore. Quella delle pecore, che è semplice e anche breve. Sì, dai, sì. Leggiamo quella delle pecore, che è la prima. Allora, Ulisse e le pecore. Una sera Ulisse entrò in casa e trovò una pecora in piedi sul divano del soggiorno. Se ne stava immobile, con le zampe affondate nei soffici cuscini di velluto, e lo fissava coi suoi occhioni neri e profondi. Un po' turbato, Ulisse si avviò in camera per posare il cappotto. Aperto l'armadio, trovò un'altra pecora in mezzo ai vestiti che, allargando le narici, respirava il denso odore di naftalina. Ulisse teneva ancora la gruccia in mano quando sentì un beh dal bagno. Un terzo vino stava ritto sulla vasca, scivolando ogni tanto sulle zampe. Ulisse decise allora di uscire sul terrazzo per rinfrescarsi le idee, ma un pecorone spuntò dalla cucina. Si avvicinò alla ringhiera, infilò il muso nella grata e con calma respirò la salubre aria della sera. La casa era tutta un belato. Beh, dalla camera. Beh, dal bagno. Beh, dal soggiorno. A Ulisse non restò che guadagnare piano l'uscita e andare a dormire in macchina. Che carina. Benissimo, ci fermiamo un momentino. E per augurare buon compleanno ad Antonio. E... auguri Antonio. Onorato, grazie. Ecco, grazie. E a tutti quelli che seguiranno. Anche la sottoscritta il giorno dopo. Auguri reciproci. Beh, ma e però doppi. Non crediate che vi dica la mia età. Assolutamente no, non ci teniamo. Ecco. Bene, allora brindiamo tutti insieme con champagne cantato da Peppino Di Capri. Per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te, e poi gettare via il perché amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Ed eccoci di nuovo in studio per un'ultima favola interpretata dal nostro straordinario poeta. Grazie. Allora vi leggerò un'altra delle 20 fiabe, brevi fiabe peraltro, dal titolo L'omino eccetera, che mi pare abbastanza simpatica. Mm-hmm. L'omino eccetera. Da molto tempo un omino, rimasto senza casa e senza lavoro, viveva rinchiuso in un orto. Era l'orto del fratello che non aveva posto in appartamento e lo costringeva a trascorrere le sue giornate tra melanzane e cavolfiori. L'omino coltivava l'orto e quando voleva distrarsi parlava fitto fitto con delle lumache che gli scivolavano accanto lungo le foglie di lattuga. Una sera vide avvicinarsi al cancello un vecchio amico di nome Diogene, anch'egli disoccupato, che viveva in una botte facendosi luce con una torcia. L'omino era emozionato. Finalmente avrebbe potuto parlare con qualcuno. Diogene, scostato il cancello, lo salutò calorosamente. «Ciao, come va la vita?» «Va abbastanza». Abbastanza eccetera, grazie. Ma che vuol dire va abbastanza eccetera? Vuol dire quella cosa che non mi eccetera. Ha intenzione di farmi perdere la pazienza? No, caro Diogene, sei sempre stato il mio miglior eccetera. Non mi permetterei mai di farti ecceterare. «Lo vedi che vuoi prendermi in giro?» replicò allora Diogene stizzito. L'omino, sempre più imbarazzato, non sapeva come spiegare all'amico che, a forza di rimanere chiuso in queste eccetera, parlando solo con queste eccetrine, mi sono dimenticato molte eccetera, ed ora al posto di queste eccetera ci metto un bel eccetera. Diogene, che amava i discorsi chiari e ben costruiti, udito un simile pasticcio di parole, se ne andò sbattendo il cancello. «Me ne torno in botte, preferisco parlare da solo!» L'omino sulle prime si avvilì, dimenticandosi perfino di annaffiare le piante. Poi riprese a parlare con le lumache dell'orto. I suoi discorsi col tempo si riempirono completamente di eccetera, eccetera, eccetera, ma quelle eccetterine non si arrabbiavano mai. Un inno alla tolleranza. Sì. E siamo arrivati. Bene, siamo arrivati alla ormai conclusione, alla così, sempre velocemente. Purtroppo sì. Allora, professor Francesco, noi ringraziamo il nostro poeta. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Chissà ovviamente che ci sia un'altra occasione, non sì si sa mai. Noi ci contiamo. Ecco, noi ci contiamo. Vi ringrazio. Bene, allora. Allora, un saluto cordiale alle nostre amiche e ai nostri amici e alla prossima volta. E con te, col professor Francesco, diamo a tutti e col nostro caro regista Eddie, diamo a tutti una buona e serena notte. Ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.